Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, giornata quanto mai intensa. Oggi, come avete immagino sentito dai nostri GR, a sorpresa, anche se dopo una vicenda che andava avanti da settimane, le dimissioni del presidente del generale Cesare Geronzi. Di questo parleremo anche e soprattutto nella seconda ora del programma. Una vicenda che è iniziata addirittura il 4 novembre dell'anno scorso e poi è proseguita tra botte e risposte, la ricostruiremo. Dimissione a sorpresa, dicevo, dopo che è trapelata l'indiscrezione che a Geronzi sarebbe potuta essere in qualche modo accreditata una mozione di sfiducia, ossia alcuni consiglieri di generali, tra cui l'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, avrebbero manifestato l'intenzione di presentare una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Geronzi era presidente delle generali dal 2010, dall'aprile 2010. In realtà anche l'uscita dal consiglio di amministrazione del 4 aprile di Anna Botin, che rappresentava e erede della famiglia spagnola del Banco Santander, considerata esponente della finanza cattolica spagnola, vicina anche all'Opus Dei, il suo passo indietro è stato letto da alcuni osservatori come una rinuncia a sostenere quanto area di riferimento Geronzi. Insomma, poi lo analizzeremo. Quello che è certo è che Cesare Geronzi non è più presidente delle generali. Il titolo come si muove? Più 3% oggi, non è il titolo più forte in realtà, perché il più forte in assoluto è Fondiaria SAI, tra quelli a maggiore capitalizzazione, più 6,26%, dopo le voci di un nuovo interesse di Groupama per, ricorderete, la compagnia di assicurazione francese che voleva entrare col 18% in Fondiaria SAI, è ancora bloccata in maniera, diciamo, di fatto dalla decisione della Consob di, nel caso di un ingresso di Groupama, di lanciare un'OPA su tutto il gruppo Premafin e Fondiaria SAI. Nuove voci di un possibile reingresso di Groupama fanno volare il titolo Fondiaria SAI, più 6,26%. Molto bene anche Intesa San Paolo, più 5,6%, dopo il via libera all'aumento di capitale monstro da 5 miliardi di euro, un aumento di capitale le cui tappe affronteremo adesso con il numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera. E bene anche Mediobanca, più 4,60%, Monte dei Paschi più 4,30%, Pirelli più 4,20%, UbiBanca più 4,12%, Popolare di Milano più 3,80% e il Banco Popolare più 3,60%, Unicredit più 3,20%, Generali più 3%, Fiat più 1,6% come A2A. Ancora tra chi invece non va bene oggi in borsa segnaliamo Parmalat meno 1,7%, Steam Microelectronics meno 1,6%, Tenaris meno 1,3%, Campari meno 1,1%, l'automatica meno 1%. L'euro è molto forte rispetto a queste settimane, ha quota 1,43,4, Milano guadagna complessivamente l'1,34% sull'indice, molto meglio di quanto non facciano Parigi, più 0,20%, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,80%, l'America più 0,20%. La differenza è di almeno un punto percentuale tra quanto guadagnano le borse europee e quanto guadagna Milano, e il punto percentuale, come avete sentito, si chiama in sostanza settore bancario. 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora parleremo dell'aumento di capitale di Intesa San Paolo, delle classi dirigenti italiane. Oggi infatti è uscito il rapporto della LUIS, che arriva in un momento in cui ci sono nomine giovani come presidenti di Eni ed Enel, appunto la coincidenza anche con la dimissione di Cesare Geronzi. Ne parleremo con il direttore della LUIS Pierluigi Celli, e poi, dicevo, i mercati finanziari e la vicenda Geronzi generali, con gli scenari che adesso potrebbero aprirsi. Andiamo subito alle notizie in breve. L'oro continua a macinare record storici. E oggi ha fatto quota 1000, è arrivato a quota 1460 dollari l'oncia, mentre il petrolio ha aggiornato a New York i massimi dal settembre 2008, siamo a 109,15 dollari il barile. Sempre in tema di petrolio, oggi è stato sentito alla Commissione Attività Produttive della Camera, proprio sulla crisi libica, il numero uno dell'ENI, riconfermato appunto ieri, e mi riferisco a Paolo Scaroni, il quale ha detto: la Francia non mi preoccupa, i contratti dell'ENI con la Libia sono assistiti da garanzie internazionali, non è che uno possa svegliarsi e cancellarli. Sentiamo questo passaggio di Paolo Scaroni, intervistato all'uscita dalla Commissione Attività Produttive della Camera dal nostro Vincenzo Miglietta. No, non mi preoccupa perché, vede, non mi preoccupa né questo né altre cose. I nostri contratti, come d'altra parte i contratti di tutti, sono assistiti da garanzie internazionali e quindi non è che possono, uno si sveglia e li cancella. Abbiamo arbitrati internazionali, soprattutto per un paese come la Libia che ha così tanto denaro all'estero, sarebbe così facile rivalersi sui loro fondi all'estero se dovessero disdirli. E poi, perché dovrebbero farlo? Chiunque vada al potere in Libia avrà come prima preoccupazione di riprendere le produzioni e di chi dovrebbe avvalersi se non di chi è già nel paese, conosce i giacimenti, conosce le persone, conosce le tecnologie, è presente da tanti anni come noi. Da ultimo, e questa è una cosa che, assolutamente, che riguarda solo noi, l'unico paese di esportazione del gas libico è l'Italia, perché l'unica pipeline che hanno è con noi, e questa è un'ulteriore garanzia che il rapporto tra Libia e Italia nel campo del gas è un rapporto strategico che prescinde da chi è al governo in quel momento. Così appunto Paolo Scaroni. Nel frattempo sono scattati oggi negli aumenti, una raffica di aumenti sulla benzina, anche per colpa dell'accisa da 0,73 centesimi decisa da oggi. Saranno diversi aumenti dell'accisa da qui fino al 2014 per finanziare la cultura, il Fondo Unico per lo Spettacolo. Praticamente l'aumento di oggi di appunto 0,73 centesimi. La conseguenza, se si somma questo aumento con l'aumento del prezzo del petrolio, che ormai tutti i prezzi raccomandati dai gestori sono in salita, l'ENI dell'1,7%, sia su gasolio che su diesel, che se si somma l'aumento di ieri sono 2,7 centesimi in solo 48 ore. Punte massime come al solito al sud, la benzina sfiora 1,620 euro al litro, il diesel 1,510 euro al litro. Ancora due notizie e poi andiamo al primo tema di apertura. Allora, per quello che riguarda la crisi, il Portogallo oggi ha collocato un'asta, piazzato obbligazioni per 550 milioni di euro con scadenza ottobre. Ha dovuto offrire un rendimento del 5,11%. Pensate che per un'obbligazione analoga al 2 marzo bastava offrire il 3% al Portogallo, adesso devo offrire più di 2 punti percentuali per trovare sottoscrittori. Ancora dalle banche portoghesi sta arrivando un pressing sul governo portoghese perché chieda gli aiuti all'Europa. Nel frattempo la Grecia, anzi Bruxelles, ha escluso, quanto al caso greco, una ristrutturazione del debito, che vuol dire andare a rimodulare il debito greco. E l'Euribor, il tasso interbancario di riferimento, quello che viene usato anche per calcolare i mutui, è ai massimi da 2 anni, all'1,269%. Domani c'è la riunione della Banca Centrale Europea, dove i più si attendono, viste anche le parole di Trichet la volta scorsa, si attendono un aumento dei tassi di interesse. Allora, Geronzi, adesso vi arriveremo, anzi nella seconda ora, però vorrei fare sentire due cose: il commento di Emma Marcegaglia molto breve al microfono della nostra Alessandra Schepisi, su quando è arrivata la notizia, era praticamente mezzogiorno e un quarto in Italia. Emma Marcegaglia, presidente Confindustria. Non conosco le modalità, cercheremo di leggere e di capire. Insomma, io credo che comunque in questa situazione la cosa importante è come dire, gestire bene e tutelare la società, no? Le assicurazioni generali, che sono l'azienda a maggiore capitalizzazione italiana, un'azienda completamente internazionale. Quindi è importante adesso che si metta al centro dell'attenzione di tutti la valorizzazione e la buona gestione dell'azienda. E sempre la presidente Confindustria Emma Marcegaglia sugli aumenti di capitale decisi dalle banche. L'ultimo è quello approvato ieri dal gruppo Intesa San Paolo, ripeto, 5 miliardi di aumento di capitale, ma nelle ultime settimane abbiamo visto anche quello di UbiBanca da 1 miliardo e molte voci su Monte dei Paschi e altri gruppi bancari. Sempre a Marcegaglia, in questo caso però sugli aumenti di capitale operati dai gruppi bancari o da operarsi da parte dei gruppi bancari. Sostanzialmente i requisiti di Basilea 3 sono stati tutti anticipati dal mercato, le banche italiane hanno reagito molto velocemente, questo è, mi pare, positivo. Mi auguro che siano tutti aumenti di capitale che vadano bene sul mercato, quindi che non ci sia bisogno di cassa, deposito e prezzo di altro, che finiscano, che vadano sottoscritti tutti dal mercato. Mi pare che questa dovrebbe essere la direzione. Così la presidente di Confindustria. Allora parliamo con il diretto interessato dell'ultimo aumento di capitale, ricordavo quello di ieri, ampiamente annunciato, ma varato ieri, e mi riferisco al numero uno del gruppo Intesa San Paolo, Corrado Passera. Buonasera, dottor Passera. Buonasera, buonasera. Allora, Intesa San Paolo, primo gruppo bancario italiano, 27 miliardi di euro di capitalizzazione, 5.800 sportelli in Italia e 11 milioni di clienti. Prima domanda che... In Italia. Ci sono gli 8 milioni fuori d'Italia e le nostre 30.000 persone che li servono fuori d'Italia. Ha ragione a ricordarlo. Prima domanda, l'aumento di capitale da 5 miliardi, possiamo spiegare a tutti gli ascoltatori, alcuni dei quali immagino saranno anche i vostri clienti, perché avete fatto un aumento di capitale che quanto a valore ricorda quasi una manovra finanziaria correttiva, sono 5 miliardi. 5 miliardi è una bella cifra, sì. Ed è però la cifra per metterci subito in condizione di essere non solo in linea con le nuove regole, ma per mettere in condizione l'azienda e tutti i suoi, non solo azionisti, ma anche proprio stakeholder, di averne i vantaggi. Ci siamo resi conto che mercati e regolatori a questo livello sono arrivati nelle loro valutazioni, avevamo da presentare un piano triennale, quinquennale, e questa era la migliore occasione per spiegare ai nostri azionisti quali erano piani e programmi, questa era la migliore occasione per prendere azione, mettere l'azienda immediatamente in linea con le nuove regole e quindi in grado di crescere, correre, far credito e avere la flessibilità da una parte di approfittare delle eventuali opportunità e di avere le spalle sufficientemente forti per affrontare gli anni che abbiamo davanti. Ecco, dottor Passera, voi avete varato, come lei ricordava, un piano oggi da 3 anni che vede l'utile nel 2013 a 4,2 miliardi, però tornando e 5,3 miliardi di dividendi tra il 2011 e il 2013. Tornando all'aumento di capitale, quello che, lo spiego chi in ascolto, è il core tier one, ossia, insomma, diciamolo brutalmente, quanto una banca deve mettere in cascina in proporzione a quanto presta alle imprese o ai cittadini. Il vostro core tier 1 sale a un livello molto alto, che è una cosa positiva, al 10%. Sale al nuovo livello che sarà la nuova regola per le grandi banche europee, senza dover rimandare questa decisione in anni. Ci saremmo arrivati anche con le nostre forze, però a costo di crescita minore, dividendi molto bassi e rischio di non poter approfittare di occasioni di crescita che invece speriamo ci saranno. Ecco, c'è chi ritiene però che in realtà, oltre che portarvi a un livello richiesto dalle regole europee di Basilea, una così alta disponibilità, diciamo, di patrimonio vi permetterà di fare anche maggiori prestiti, lo dico in maniera che tutti possono capire. Questo è un primo passo per diventare, diciamo, la banca di sistema, la banca che va in qualche modo a operare pur privatamente per il sistema imprese italiano, e qui il riferimento è anche a Parmalat, ma non solo? No, no, non confondiamo le cose. Allora, noi siamo una banca che ha azionisti e che ha delle precise responsabilità. Noi viviamo di credito, vogliamo fare il possibile per contribuire alla crescita del nostro paese e degli altri paesi dove operiamo. Il piano d'impresa prevede 50 miliardi di credito in più nel corso dei primi tre anni e di 100 miliardi di credito in più nel corso dei cinque anni che abbiamo davanti a noi, ma questo non ha niente a che vedere con quello che lei diceva, operazioni di sistema, cioè la banca deve innanzitutto essere responsabile nei confronti dei suoi azionisti e dei suoi impegni, dovunque è possibile, fa prendere delle iniziative, anche prendendosi delle responsabilità superiori alle normali, per iniziative, per progetti che permettono di creare nuove aziende, di far crescere le aziende che già ci sono, per tenere in Italia i centri direzionali di aziende solide e sane che quindi possono creare sviluppo. Noi ci siamo sempre stati e ci saremo. Devono essere però sempre operazioni industrialmente valide, devono essere operazioni di mercato, e ne abbiamo fatte tante, perché la nostra azienda ha fatto più di 100 investimenti industriali e in tanti casi ha permesso la soluzione di problemi difficili o la nascita di nuove iniziative, ma sempre con l'orientamento di fare cose che siano economicamente e responsabilmente valide. Ecco, tra le cose economicamente e responsabilmente valide c'è anche il tentativo di trovare un'accordata italiana per Parmalat? C'è anche lo sforzo che stiamo facendo insieme a Unicredit e Mediobanca per trovare, come le dicevo, soluzioni industrialmente solide e di mercato che poi gli azionisti di Parmalat potranno valutare in alternativa a quelle che già si sono palesate. Ecco, lei citava giustamente il fatto che assieme a voi c'è anche il gruppo Unicredit. Nell'aumento di capitale molti hanno fatto notare che nel consorzio di collocamento e garanzia l'aumento di capitale da 5 miliardi ci saranno anche i vostri cugini concorrenti di Unicredit. Qualcuno ha scritto: ma anni fa sarebbe stato impossibile con la concorrenza che c'era, adesso invece, come effetto anche di una debolezza del sistema non bancario ma economico complessivo, diciamo, c'è meno concorrenza e lotta e più voglia di fare sistema. Lei è d'accordo? Credo che se avessimo fatto un aumento di capitale alcuni anni fa ci sarebbe stata ugualmente la proposta dei responsabili del consorzio a proporlo anche all'altra grande banca italiana. Non toglie nulla alla concorrenza feroce, giustamente feroce che ci facciamo sul mercato, partecipare a operazioni che sono valide, sane e che alla fine sono anche un rafforzamento del sistema, nulla tolgono al fatto che siamo poi sul terreno fieri competitore. E quindi sono operazioni di sistema, ma sul terreno poi vi, giustamente, in maniera sana, rubate i clienti. È così, e il sistema bancario italiano è passato attraverso la crisi molto meglio di altri e ha raggiunto risultati molto più solidi di quelli di altri paesi grazie proprio a questa iniezione formidabile di concorrenza che negli ultimi 15 anni è stata messa e che ha permesso i risultati che abbiamo poi tutti raggiunto. Ho ancora due domande per lei, dottor Passa. La prima, sempre sull'aumento di capitale, i soci. Allora, l'aumento di capitale vuol dire chiedere soldi al mercato e in primo luogo agli azionisti. Voi avete tra i principali azionisti Compagnia San Paolo che ha 9,8%, Crédit Agricole al 4,9%, le Generali 4,9%, poi le fondazioni Cassa Risparmio Padova Rovigo 4,9, Cariplo 4,6 e via così, Cassa di Risparmio di Firenze 3,3. Ho visto poco fa, c'è un'agenzia per cui la Cassa di Risparmio di Firenze ha già detto di sì all'aumento di capitale, la decisione arriverà in tempi brevi. Lei è tranquillo sul fatto che i soci, perlomeno quelli più grossi, i principali, aderiranno tutti all'aumento di capitale? Le fondazioni delle volte nel passato, non tanto nel caso vostro, ma in generale, hanno avuto anche ruoli e atteggiamenti di distinguo rispetto a richieste di aumento di capitale? Ma guardi, per noi è la prima volta, perché negli ultimi 10 anni, da quando io ho memoria, non ci sono mai stati aumenti di capitale, e però quella, l'esperienza del rapporto con le nostre fondazioni è di grande supporto a piani industriali seri, quindi noi siamo molto ottimisti sul fatto di trovare il favore dei nostri azionisti stabili anche in questa occasione. Credo che si dichiareranno, credo che decideranno nei prossimi giorni, ma da sempre era stata espressa la loro disponibilità, in caso fosse stato necessario, a esserci in un'operazione anche importante di rafforzamento della banca. Un'ultima domanda, e la ringrazio per la disponibilità, perché mi rendo conto che oggi insomma la giornata è intensa. Allora, ieri abbiamo visto le nomine delle partecipate del Tesoro, no, chiaramente non voglio una valutazione sugli uomini, però una cosa che molti hanno notato, che sia il neopresidente dell'ENI Recchi che il neopresidente dell'ENEL Colombo hanno età molto giovane in questo paese, perlomeno 47 anni e poco più di 50 nell'altro caso. Oggi tra l'altro insomma, abbiamo visto anche un passaggio di consegne, perlomeno le dimissioni di Geronzi. Alla generale le chiedo, secondo lei sta cambiando qualcosa perlomeno quanto a classe dirigente? Lei è considerato... lei è Profumo, adesso Profumo non è più banchiere, ma eravate i due enfant prodigi, due giovani, lei se non ricordo male ha 57 anni, adesso mi corregga se sbaglio, quasi. Allora, questo è importante, quasi 57 anni, quando li compie? Così. A fine di dicembre, perfetto, allora ne ha 56 e mezzo, insomma, sta cambiando qualcosa secondo lei nelle classi dirigenti del paese, visto che poi parleremo di questo con Pierluigi Celli, direttore della LUISS, che oggi ha presentato un bel rapporto a Roma? Ma guardi, mi sembra che il settore bancario in questo ha fatto un grande ringiovanimento che ha attraversato quasi tutte le principali banche, e questo non casualmente viene con l'aumento che dicevamo prima della concorrenza nel settore, dell'apertura del mercato a banche internazionali e alla pressione di innovazione che c'è stato. Certamente il nostro paese ha spazio deve creare più spazio con a persone capaci anche di altre età. Dobbiamo sempre fare attenzione a considerare il merito al di là dell'età la cosa principale, se poi c'è merito ed età giovanile, quello è il massimo. Ma secondo lei Geronzi si è dimesso anche per una pressione, diciamo, delle nuove generazioni? Guardi, io lì non so, non abbastanza, non mi sento di fare un commento. È successo mentre io presentavo il piano e non mi sentirei in questo momento di fare un commento. Allora, me ne dica un ultimo, come diciamo, regalo, sull'italianità. È settimane che intervistiamo decine di ospiti sul tema dell'italianità, che ai tempi in cui veniva portato avanti dal governatore Fazio sulle banche non sembrava un principio. Io vorrei capire adesso, l'italianità va difesa perché siamo tutti italiani, però insomma... quanto dobbiamo difendere l'italianità di un gruppo se non si trovano soci che vogliono entrare italiani, soprattutto all'interno dell'Europa? Ma guardi, io su quello dell'italianità ho abbastanza le idee chiare. Un paese è tanto più forte quanto ha tante grandi aziende di tutti i settori con le teste, non soltanto con le filiali commerciali o operative nel paese, e quindi dovunque si possono creare nuove aziende, tenere in nuove aziende, attirare aziende dall'esterno che vengano a mettere le loro funzioni anche direttive, anche di pensiero e non soltanto esecutive, tanto più il paese ha delle opportunità per i giovani e per le migliori competenze che appunto ci sono. Non bisogna però, e questo è ovvio, dall'altra parte non c'è ragione al mondo di penalizzare progetti per il fatto di essere di una nazionalità o dell'altra. La storia dice che in alcuni settori quei paesi che si sono completamente disinteressati al fatto che ci fossero anche banche per esempio molto radicate nel loro paese, nei momenti di crisi poi hanno avuto delle difficoltà. Detto questo, il nostro paese è uno dei paesi più aperti e uno dei paesi che ha più banche internazionali che hanno investito, però abbiamo visto durante la crisi che alcuni paesi che avevano totalmente venduto a destra e a sinistra il loro sistema bancario non si sono trovati bene. Certe volte però bisogna andare a trovare trovare il giusto azionista altrove, perché magari non c'è, quindi non è che bisogna a tutti i costi in ogni caso avere soluzioni nazionali, dipende un po' dal settore, dipende dal fatto che sia più o meno valido il progetto, non c'è progetto nazionale cattivo che possa essere migliore di un progetto internazionale buono, però tutti i paesi forti si occupano di avere nei loro confini le aziende radicate. Ma lei manca la vecchia Mediobanca, come dice il ministro Tremonti, poi è corretto? Ma noi con Banca IMI, devo dire, ci siamo presi una bella posizione di mercato di cui siamo fieri e che ha permesso di risolvere tantissimi problemi anche in termini di quote di capitale, ne abbiamo fatte più di 100 e in tanti casi abbiamo reso possibili progetti industriali o progetti difficili o progetti considerati impossibili proprio grazie al fatto di esserci attrezzato come banca per essere sia portatori di credito ma anche di capitale e dove necessario di integrazione anche imprenditoriale. Quindi dice no, in sostanza voi come Banca IMI avete fatto... Noi direi che svolgiamo un ruolo credo abbastanza utile. Sì. Grazie per la disponibilità, in bocca al lupo per l'aumento di capitale da qua a luglio, quindi vale per i prossimi mesi l'in bocca al lupo. Grazie amministratore delegato del gruppo Intesa San Paolo, Corrado Passera, a presto. Pierluigi Celli, direttore della LUIS di Roma, LUIS Guidocari di Roma, buonasera. Buonasera. Ha sentito Corrado Passera anche sulla parte che lei più interessa nel rapporto, cioè il mondo bancario da sempre ha avuto un ricambio della classe dirigente, perlomeno nella sua parte più esecutiva, gli amministratori delegati, devo dire che sia Alessandro Profumo che Corrado Passera che Giuseppe Mussari, e vado a memoria breve, possiamo citare per carità, ma è meno importante o meno virtuoso l'esempio anche di Fiorani, erano tutte persone molto giovane. Allora, se mi dà ancora un minuto di intanto mi dica cosa ne pensa delle dimissioni di Geronzi, se c'è anche una spinta generazionale o sono solo casi interni, poi veniamo al vostro rapporto. Beh, io molto non posso dire, non so neanche per quali ragioni si possono intuire, ma insomma però le nomine arriva un momento per tutti, credo. Arriva un momento per tutti. È il modo con cui arriva che normalmente non si può prevedere, quindi bisogna che qualcuno se ne faccia. Però qualcosa sta cambiando. Voglio dire, ieri abbiamo visto due presidenti di Eni ed Enel molto giovani in questo paese. Tutti e due, tra l'altro. Recchi e Colombo, uno 47 molto anni, bravi. L'altro 50. E qualcuno ha detto sono così giovani che non staranno solo lì a tagliare i nastri e diciamo inaugurare le sedi. Ma probabilmente impareranno per prendere. Ecco, ma è questo il modo in cui un paese forma classe dirigente, cioè mettendo persone di età abbastanza giovane a imparare il mestiere e poi fare conoscere il gruppo dall'interno, soprattutto con gruppi più così complessi come Eni, Enel, se vogliamo anche. Sì. Bisogna entrarci dentro, sono gruppi molto complicati, quindi non è che uno possa imparare semplicemente perché è bravo, insomma. Sono mondi che vanno conosciuti, sono delle culture specifiche e quindi un po' di training lo si fa, e credo che il modo con cui glielo fanno fare sia il modo giusto. Io credo che poi mescolare i più giovani e quelli che hanno un'età magari un pochino più avanzata, credo che sia la misura giusta, insomma non è semplicemente una questione di età quella che è più adatta a risolvere solo i problemi. I giovani vanno messi nelle condizioni di poter imparare avendo poi anche vicino qualcuno che in qualche modo l'esperienza l'ha fatta. E prima del metto ancora una battuta su... È vero secondo lei che in realtà dentro l'economia e la finanza c'è più ricambio generazionale, quindi si cerca di creare più classe dirigente rispetto alla politica? Sì o no? Beh, la finanza, anche perché la finanza ha sviluppato ormai competenze specifiche molto puntuali sulle quali si sono esercitati di più i più giovani. Quindi c'è una classe di età che ha fatto esperienza anche perché come dire, nelle banche d'affari eccetera eccetera, sui nuovi strumenti finanziari ci vuole anche un'agilità mentale, una preparazione, una conoscenza linguistica abbastanza specifica e precisa, e quindi è stato più facile poi pescare lì. C'è chi scrive: chi se ne frega dell'età anagrafica, l'importante è che siano giovani di testa. E altri che dicono: ma guardate alcuni giovani anche in politica che disastri hanno fatto. Ma dipende dal modo con cui si seleziona, dal modo con cui si fanno arrivare nelle posizioni. L'età di per sé dice qualcosa, ma non dice tutto. Perché ci sono persone avanti in età che sono totalmente fungibili oggi e quindi utilizzabili, perché hanno sviluppato competenze, esperienze, eccetera, eccetera, e ci sono giovani che sono stati scelti semplicemente perché sono ininfluenti e quindi in qualche modo più o meno portavoce, diciamo, ecco. Non è in realtà il discrimine vero. Certo, se si sceglie dei giovani bravi che meritano, che hanno dimostrato, eccetera, eccetera, e li metti in posizione di responsabilità vicino a qualcuno che in qualche modo li aiuti, secondo me il mix è virtuoso e quindi può generare risultati soddisfacenti. Ancora due domande sul rapporto che avete presentato oggi. Il titolo è, insomma, classe dirigente incerta e non ancora pronta al nuovo. Voi parlate di tutta la classe dirigente italiana. Cosa vuol dire che non è ancora pronta a sfruttare le nuove prospettive? Ha una sorta di ritrosia a buttarsi e a impegnarsi anche quelli che avrebbero più possibilità di farlo, perché il contesto generale sembra non premiare le qualità, il coraggio, la capacità di rischiare, la capacità di mettersi in gioco, eccetera, eccetera, ma sembra piuttosto premiare quelli che in qualche modo si aggregano e si mettono in fila e in qualche modo... Gli yes men, diciamo. Sì, gli yes men classici sostanzialmente. Questo è un paese un po' ripiegato, anche se ci sono segnali, soprattutto a livello territoriale, che sono incoraggianti, soprattutto a livello di impresa, imprenditoria e anche per alcuni versi, classe politica delle pubbliche amministrazioni locali che in qualche modo sta emergendo, insomma. Ecco, dicevamo che è un paese che premia più gli yes men che chi ha il coraggio, possiamo dire anche le yes women, viste le esperienze di queste, viste le polemiche di queste. Sono particolarmente penalizzate. Ecco, allora, le yes women, e qui non voglio andare chiaramente sul volgare, so già dove arrivano i commenti, però mi introduce l'ultimo tema che ho per lei, e cioè il fattore donna. Ne abbiamo parlato decine di volte, anche con le prime firmatarie della legge sulle quote rosa, Lella Golfo e non solo, e sapete come la pensiamo, è sicuramente una forzatura sul merito dare una quota, ma delle volte è l'unico modo in un paese che è bloccato su questo. Allora, nel vostro rapporto avete trovato un miglioramento nel fattore donna, oppure la yes woman è solo quella che sa dire di sì in altro modo? Prego. Le donne che escono dalla scuola, dall'università, eccetera, eccetera, sono significativamente più brave degli uomini. E questo è tutti gli anni, ce lo dite, per cui è una costante. Purtroppo è così e lo vediamo anche. Perché purtroppo? Per fortuna. Poi, per come dire, le condizioni in cui si mette a lavorare, eccetera, eccetera, alla fine le penalizzano. Quindi le quote rosa sono certamente una forzatura, non piacciono quasi a nessuno, ma alla fine forse possono aiutare, sempre che non vengano poi dopo manovrate, in funzione o secondo stereotipi maschili, è una cosa facilissima. Cioè, stereotipo maschile, andiamo ancora più espliciti, Celli. Sì, cerchiamo delle donne che abbiano una modalità di comportamento tipica dei maschi, insomma, mentre le donne hanno delle competenze, delle capacità, una cultura che può significativamente innovare se si mantiene proprio nell'alveo di quello che loro hanno tradizionalmente sviluppato. Quindi un'attenzione particolare agli altri, una relazionalità più spinta, una capacità di motivare che è maggiore. Se si mettono a fare gli uomini, quindi si mettono in fase competitiva con lo stesso modalità dell'uomo e della cultura maschile, con ogni probabilità diventano indigesti prima alle donne che agli uomini. È molto importante questo, perché quello che delle volte è mancato, adesso non possiamo fare la puntata su questo, è veramente la componente femminile dentro il consiglio di amministrazione, dentro i livelli più alti nella dirigenza di un gruppo pubblico, privato, poco importa, e questo forse anche per colpa dei maschietti, cioè che hanno accettato solo le donne che si comportavano a maschi, quindi sempre competitive, sempre vedere, diciamo, chi è la cosa più bella, chi è la cosa più forte, e non hanno apportato delle volte altri elementi che non siano sempre di competizione, di guerra, di misura tra me e te. Grazie al direttore generale della Università Luis Guido Carli, Pierluigi Celli. Grazie a voi, buonasera. Adesso la borsa. Livia Zancaner, innanzitutto, beh, chiedono, tu ti sei mai sentita penalizzata in quanto donna nella tua carriera, chiedono gli ascoltatori. Ma no, fino adesso direi di no. Ecco, appunto. Vediamo. Ci mancherebbe. Allora, Fondiaria Sai, più 6,20%, ipotesi che Gruppo AMA torni a che torni l'interesse di Gruppo AMA per il gruppo di Ligresti, quindi prima fine Fondiaria Sai. Sì, allora assolutamente sì, le motivazioni che hanno spinto il titolo sono appunto le voci relative a un ritorno di Gruppo AMA nella partita per il riassetto della Galassia Ligresti. Bisogna dire che prima fine che la holding ha guadagnato il 19,5% circa, secondo quanto riportato oggi appunto al Sole 24 Ore, i francesi starebbero valutando un investimento diretto in Fonsai con una quota tra il 10 ed il 18%. In realtà però gli operatori non si aspettano che sulla società possa riaprirsi una partita relativa al controllo di proprietà, in quanto la compagnia è praticamente blindata da un patto parasociale stipulato da Prema fine Unicredit. Però insomma oggi tutto il settore bancario assicurativo si è mosso moltissimo. Intesa San Paolo più 5,35%, qui il ragionamento è dopo l'aumento di capitale, no? Sì, allora bisogna sottolineare che gli scambi sono stati particolarmente elevati, sono stati scambiati 330 milioni circa contro una media mensile giornaliera di oltre poco più di 157 milioni. Allora, oggi appunto è stata presentata l'operazione di aumento di capitale al mercato, un'operazione che era già comunque stata scontata dagli investitori, quindi dal mercato stesso, e in particolare quelle che sono state apprezzate sono state le indicazioni contenute nel piano industriale. Su dividendo è utile, dici? Sì, dividendo è utile, in particolare il monte dividendi cumulato per i 3 anni, nel senso che il piano contiene un monte dividendi cumulato di circa 5,6 miliardi, alcuni analisti, quindi alcuni operatori si aspettavano un 3,6 miliardi, quindi è nettamente superiore alle stime. Allora, ancora andiamo avanti su questo. Sui bancari, in questo caso non è Intesa a far notizia, ma è Mediobanca, più 4,80%. Domanda, poi avremo tutta la seconda parte sulle generali dimissioni di Geronzi, ma siccome le dimissioni di Geronzi sono arrivate quando si è sparsa la voce che vi sarebbe stata una mozione di sfiducia firmata anche proposta dallo stesso numero uno di Mediobanca, ossia Alberto Nagel, il titolo è legato a questo? Sicuramente sì, almeno se guardandomi il mercato oggi sì, infatti il titolo generale comunque è iniziato a saliva già, andava già bene, ma comunque è iniziato a salire, ha toccato addirittura un più 5,7% dopo l'annuncio, e Mediobanca è la stessa cosa, Mediobanca azionista quindi senza voler dare un giudizio di valore, ma solo di fatto, così come possiamo dire che il mercato apprezza il nuovo interessamento dei francesi di Gruppo AMA per Fondiaria, più 6%, apprezza l'aumento di capitale ma gli obiettivi di utile e dividendo del gruppo Intesa San Paolo più 5,3%, apprezza le dimissioni di Geronzi sia sul titolo generali più 3% che sul titolo Mediobanca più 4,80%, che apprezza invece il Monte dei Paschi più 4,70%. Allora, in realtà si era parlato appunto nei giorni scorsi della necessità anche per il Monte dei Paschi di un aumento di capitale, e quindi del fatto che la fondazione azionista di MPS avesse iniziato appunto a sondare il terreno. Ieri ci sono state delle stime su quanto dovrebbe essere appunto l'aumento di capitale del Monte dei Paschi, ma in realtà per quanto riguarda la performance di oggi bisogna dire che MPS si adegua al buon andamento delle banche, che hanno segnalato performance positive anche in Europa. Bisogna segnalare che domani vi è anche la riunione della Banca Centrale Europea sui tassi, quindi domani comunicherà l'incremento e quindi di quanto sarà l'incremento sui tassi. Ancora tra i titoli, oltre a quelli citati, c'è Pirelli che è molto forte oggi, più 4,30%. Allora, UbiBanca, scusami Livia, ma vale il ragionamento fatto per Monte dei Paschi, l'aumento c'è già stato, è più 3,96%, però su UbiBanca c'è anche notizia di mercato, facciamo Pirelli UbiBanca, scusami. Sì, Allora, per quanto riguarda Pirelli, allora, vi sono dei giudizi positivi da parte degli operatori secondo cui il titolo è sottovalutato rispetto sia al settore rispetto a concorrenti come Michelin. Allora, secondo gli operatori, Pirelli sarà in grado inoltre di superare gli obiettivi indicati per il 2011. Bisogna inoltre sottolineare che in questa settimana la rivale Nokia ha comunicato i dati preliminari del primo trimestre che sono stati sopra il consenso, sì, in termini di fatturato. Ubi? Allora, per quanto riguarda UmiBanca, per la performance bisogna dire che hanno risentito, sì, quindi hanno beneficiato dell'andamento del settore, e la notizia che vedo io è che il CDA della Banca Popolare di Commercio e Industria ha nominato Cera quale presidente. Sì, e poi varie altre discussioni, adesso siamo in sigla e ne parliamo dopo. Il GR, una cosa volevo però ricordare: Premafin, tu già vi facevi riferimento, e quindi la controllata finanziaria del gruppo Fondiera SAI, famiglia Legresti, più 19,4% oggi, quindi il mercato ci crede, come che i francesi torneranno ad avere un interesse. Poltrona Frau meno 4% invece. Ultima dato invece riguarda Parmalat, meno 1,90%, come tu ricordavi anche ieri, si raffreddano le ipotesi di un ingresso francese e quindi il titolo si sgonfia. Grazie a Livia Zancanera, Radio Corriere sulle 24 ore. Grazie a voi, buonasera. Vorrei però dare un attimo un approfondimento, prima di tornare sul tema generali, proprio su quello che sta capitando a livello di altri paesi europei. Oggi il Portogallo ha dovuto offrire un rendimento altissimo per trovare sottoscrittori per il suo debito. 349-238-6666 per i vostri SMS. Il 5,11% è il rendimento che ha dovuto offrire il Portogallo contro un 3% di inizio marzo, cioè il 2% in più in solo un mese per trovare sottoscrittori al suo debito. E ancora le banche portoghesi stanno facendo pressing sul governo perché chieda gli aiuti europei. E ancora sulla Grecia, Bruxelles ha escluso che possa essere ristrutturato il debito greco, che poi vuol dire in sostanza andare a rinegoziare un debito che diventerebbe inesigibile, un credito in questo caso che diventerebbe inesigibile. Su questo questa mattina il ministro all'economia Giulio Tremonti, dal Salone del Risparmio che si è aperto a Milano, ha parlato di crisi e delle cure su questa crisi. Vi do una banale informazione: la prossima crisi non si cura più con la vecchia medicina, perché il debito pubblico è finito. Questo dovrebbe porre qualche ragione di riflessione agli scienziati o dintorni. La vecchia crisi, quella che c'è stata in questi anni, è stata gestita col debito pubblico. Adesso ha dettato la malattia, ma 2 anni fa era la medicina. Il magazzino è finito. La prossima crisi, nell'ipotesi che venga una crisi, ipotesi che da alcuni viene esclusa radicalmente, ma da alcuni, bisogna inventarsi una qualche nuova medicina. In ogni caso magari occorrerebbe evitarla, la crisi, mandando dalla parte del mea culpa quelli che hanno promesso regole e prospettato configurazioni che poi non sono venute fuori. E poi Tremonti ha negato che vi sia un declino nel sistema paese. Sono 10 anni che sento questa menata, ha detto Tremonti, che non è un termine molto finanziario ma rende bene l'idea. Ancora la proposta di testare a Milano un regime fiscale favorevole. Stiamo facendo shopping di regimi fiscali, ha continuato il ministro. Se c'è un regime di favore ed è buono in altri paesi, forse è buono anche qui. L'idea è di applicare a Milano i regimi fiscali che per esempio ci sono in Irlanda per un tempo dato e a determinate condizioni. E poi sull'IRI, nessuno è così pirla da rifare l'IRI, ha detto sempre il ministro dell'economia. E poi è arrivato invece nel pomeriggio, non questa mattina alla presentazione del Salone del Risparmio, ma questo pomeriggio, ha un commento sulle generali. In sostanza gli hanno chiesto, insomma, quale cosa pensava il ministro, cosa pensava il ministro di quello che stava accadendo sulle generali. Sentite la risposta. Ma che cosa sta accadendo in generale? In generale. Ah, in generali. È un'assicurazione. Parla Mussavi. No, no, no. Parlo in generale. Io copio. Per quanto riguarda il consiglio di una società quotata a borsa aperta, non mi sembra di dover nulla, di poter dire nulla. Chiara la battuta. Intanto saluto e ringrazio il vice direttore del Sole 24 Ore Alessandro Paterotti, che ci ha raggiunto. Buonasera in studio proprio per parlare di generali, non della generale. Ma è chiaro che insomma, Tremonti non volesse sbilanciarsi. Dopodiché analizzeremo anche magari anche questo aspetto. Prima due reazioni arrivate oggi. La presidente Confindustria Marcegaglia a caldo, proprio in quei minuti, sulle dimissioni di Geronzi. Erano le 12:15 quando sono arrivate. Non conosco le modalità, cercheremo di leggere e di capire. Insomma, io credo che comunque in questa situazione la cosa importante è come dire, gestire bene e tutelare la società, no? Le assicurazioni generali, che sono l'azienda a maggiore capitalizzazione italiana, un'azienda completamente internazionale. Quindi è importante adesso che si metta al centro dell'attenzione di tutti la valorizzazione e la buona gestione dell'azienda. Il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, ha detto sarebbe scorretto commentare su Geronzi. Corrado Passera, l'avete sentito in diretta, ha detto preferisco non commentare. La notizia è arrivata quando noi stavamo presentando il piano industriale, ancora non ne so molto. Secco, laconico, il commento di Paolo Scaroni, numero uno dell'ENI. Guardi, io parlo talmente tanto di ENI che si figuri se ho voglia di parlare di generali. E invece noi parliamo di tutto, di Intesa, di ENI e anche di generali. Alessandro Paterotti, ti chiedo a questo punto un minuto di pazienza, perché poi la vicenda da ricostruire nella sua complessità e nella sua anche cronologia, perché i problemi sono iniziati diciamo a novembre. Leggo solo due agenzie che ti possono essere utili. Geronzi si è dimesso anche dall'incarico nel Consiglio di Amministrazione delle Generali, nel CDA, e lascerà anche quello nei patti di Rizzoli, Corriere della Sera e Pirelli, oltre alla RCS Quotidiani. Infine Bolloré, Vincent Bolloré ha detto tutto bene, è andato tutto bene, io resto vicepresidente. Ma andiamo a ritroso, cioè partiamo da oggi. Oggi Cesare Geronzi, che è arrivato un anno fa alle generali come presidente della Mediobanca, si dimette quando circola la voce o viene avvisato dall'azionista di riferimento delle generali, che si chiamano Mediobanca, hanno il 14%, Alberto Nagel, che sarebbe arrivata una mozione di sfiducia nei suoi confronti. A quel punto, per non essere diciamo sfiduciato pubblicamente, fa il passo indietro. Come si è arrivati ad oggi? Ma ripercorrendo le tappe sulle cronache è abbastanza semplice. Uno si accorge che il primo scontro c'è stato quando l'ISVAP ha chiesto lumi alla presidenza, al management delle generali su un'operazione in Est Europa, sul perché era stata fatta, qual era l'impatto finanziario, l'impatto di medio termine, i costi occulti se ce ne fossero stati e così via. Poi c'è stato lo strappo di Leonardo Del Vecchio. Leonardo Del Vecchio all'improvviso decide: io qui ci sono delle. Non è chiara la governance, che era nel consiglio di amministrazione, era il membro forse tra i più autorevoli di quel consiglio di amministrazione, in quanto fondatore di una delle poche multinazionali italiane. La Luxottica. Certo. La Luxottica. E insomma, Del Vecchio decide di uscire e lì. E si innesca un meccanismo di dire che cosa succede in generale, perché finché era l'ISVAP ci sono state tante ispezioni dell'ISVAP, ma quello non era discriminante. In realtà qual è il nodo? È il nodo che si vede purtroppo in quelle società che non sono public company, che non sono però allo stesso tempo guidate da una sola mano di proprietà, ci sono più soggetti, più azionisti, e si chiama governance. Quella è una parola termine semplice, è questa. E Geronzi, quando viene nominato presidente dei generali, la prima cosa che si dice è che Geronzi non ha deleghe. Che cosa significa per il pubblico non avere deleghe? Non avere delle funzioni fissate su una carta che delineano un campo operativo d'azione. Che cosa posso fare e che cosa non posso fare? Io ricordo un'intervista, a questo punto potremmo dire quasi Galeotta, che fece alla Repubblica lo stesso Geronzi con Giannini, se non sbaglio, fu allora, sì. In cui si diceva: deleghe, io non ho bisogno di deleghe, mi basta un telefono. Io credo che la luce degli eventi di un anno dopo si possa capire perché si è arrivati a questo. Non basta un telefono. Mm-mm. In una società serve probabilmente una mappa dei poteri di ogni dei manager, del presidente, che cosa devono fare i comitati, che cosa non devono fare né i manager né i presidenti, mentre invece si è creata una commistione, una confusione che ha creato poi le condizioni per cui dalla partita di generali si trasmettesse non soltanto all'interno del consiglio la tensione, ma nella galassia delle società controllate o partecipate dai generali. E qui va chiarita una cosa per chi ascolta: i generali non sono solo il secondo gruppo assicurativo in Europa, quindi una potenza, ma sono anche l'intreccio e lo scambio di numerose partecipazioni. I soci si chiamano Mediobanca col 14%, Banca d'Italia col 4,5% e il gruppo Caltagirone col 2,2%, ma le partecipazioni delle generali, cioè dove le generali hanno le quote, si chiamano il 5% quasi di Intesa San Paolo, il 5,5% di Pirelli, 4% della Rizzoli Corriere della Sera, il 2% di Mediobanca, il 28% della Telco, che è la holding che controlla Telecom Italia. Quindi lì è lo snodo per tutto, non è solo un gruppo assicurativo. Certo, giusto. Infatti questo è evidente, l'intreccio, il ruolo di cassaforte delle partecipazioni del salotto buono dell'industria italiana è stato un ruolo storico di generali. Ora, il problema è proprio lì. Sedere in quella cassaforte significa poi incidere sulla vita delle imprese collegate. Allora, mentre in Pirelli, in Banca Intesa, il ruolo è quasi di socio silente, è chiaro che sul Rizzoli Corriere della Sera il ruolo di Geronzi era ben diverso da quello di socio silente. Per cui gli altri vivevano in modo un po' stretto questa incapacità di influenza e d'azione di Geronzi. Dice, ricordiamo questo, la differenza qual è? Fra chi è proprietario di azioni e chi invece viene indicato da terzi. E questo è il caso di Geronzi. Geronzi non ha azioni sue e quindi su questo lato è vulnerabile agli attacchi di chi non ritenesse, oppure ritenesse troppo influente il suo ruolo. E tu citavi i vari attacchi. Il 22 gennaio Diego Della Valle attacca Geronzi definendolo anche Bazzoli, poi si è corretto su Bazzoli, un arzillo vecchietto. Intervista Geronzi del Financial Times. Si arriva di nuovo al 27 febbraio, Della Valle che rincara la dose. Però Financial Times non è secondario, no. Quello è stato il punto critico di tutta la vicenda. Sì, adesso lo spieghiamo. Spieghiamolo subito. Lo spieghiamo subito perché è meglio. Perché nell'intervista del Financial Times, Geronzi è stato sostanzialmente, che cosa disse? Queste sono le strategie delle generali: investire nelle infrastrutture, il ponte sullo stretto, che poi è quel fantomatico ponte sullo stretto. Ma disse un'altra cosa ben più importante: sosterremo le banche nelle ricapitalizzazioni. Questo in Italia non si parla di banche in modo agevole, soprattutto anticipare scelte strategiche che scompetono all'amministratore delegato e non al presidente, e comunque avrebbero dovuto essere discusse in un consiglio di amministrazione e non su un giornale inglese. Questo ha creato le condizioni perché nuovi attacchi, una nuova ondata di reazione di chi appunto crede che siano i consigli e non i giornali a dover fare le scelte. È partita. La critica è stata, insomma, sei presidente, non hai le deleghe chiare per parlare, per di più parli delle strategie, come tu ricordavi, future del gruppo assicurativo, queste cose le dobbiamo discutere noi, non parli tu per noi. E col senno di poi, Alessandro, possiamo dire che quell'intervista è stato un passo falso, perlomeno senza dubbio, tant'è vero che il mercato colpì subito le generali con un altro ribasso. Ci furono report degli analisti internazionali molto pesanti su questo, perché l'Italia, per quanto nella sua diversità, non è che viene sempre capita all'estero, e quell'episodio di un presidente senza deleghe che va a fissare le strategie del più grande gruppo assicurativo italiano ha lasciato un po' disorientati gli analisti, perché dicono, ma allora dobbiamo parlare col presidente o dobbiamo parlare con l'amministratore delegato per sapere dove va la compagnia? Con Perissinotto o con Geronzi? Beh, immaginate cosa capiterebbe, visto che ieri parlavamo delle nomine di Eni, Enel e Finmeccanica, se parlassero i presidenti sulle strategie di un gruppo come l'Enel o l'Eni e non gli amministratori delegati. Si creerebbe un problema. Non è mai successo. Non è mai successo. Geronzi al Forex, quindi poche settimane fa a Verona, sulle tensioni interne nelle generali, sui litigi, ma anche e soprattutto su quello che sono le partecipazioni strategiche delle generali. Ascoltiamolo nei due passaggi. In generali non c'è stata mai una definizione di partecipazioni strategiche o non strategiche. Sono tutte partecipazioni che hanno come obiettivo la redditività. E quindi tant'è. E che poi il responsabile sia l'amministratore delegato è nelle cose così come era nelle cose. siccome tutte le operazioni sia nella parte acquisitiva che nella parte di cessione seguono le deleghe che sono affidate alle parti funzionali, nulla di nuovo, insomma, non è che io avessi il potere di acquistare o vendere qualcosa, non lo volevo, non l'avrei mai voluto, non l'ho avuto mai da nessuna parte, non è il mio compito, non faccio parte né della botta né della risposta, io sono un assistente, io non ho litigato mai con nessuno, se qualcuno litiga con me è un problema suo. Eh no, mi dispiace dirle, è un problema anche suo, visto quello che è successo. Ostentava sicurezza Geronzi lo scorso 26 febbraio al margine del 17esimo Forex. Le cose, come possiamo dire adesso, sono andate in maniera diversa. Alessandro Pratarotti, non eludo una domanda che sta arrivando da molti ascoltatori. Il caso delle dimissioni di Geronzi è un caso solo delle generali e di come il suo ruolo non sia mai stato chiarito, digerito e tutto quello che tu hai appena raccontato, o qui c'è qualcosa di più sistemico? Giovani leve che arrivano all'ENI, all'Enel, ieri Corrado Passera non ha voluto parlare dell'aspetto generazionale, ma insomma tutti sappiamo che Geronzi aveva un ottimo rapporto con il Presidente del Consiglio Berlusconi. Sta cambiando qualcosa a livello sistemico, oppure rischieremo di fare dietrologia, il tutto si gioca all'interno delle generali, delle sue partecipazioni, Corriere della Sera, Mediobanca e quant'altro? Ma io penso che confondere l'idea dell'età con quella del passaggio sistemico sia sbagliato. Ci sono delle persone di una certa età che hanno una grande esperienza storica, societaria, e che possono dare un grande valore aggiunto, quindi non è che bisogna dire siccome a una certa età è meglio, se viene fatto fuori allora c'è un sistema che cambia, potrebbero arrivare dei giovani altrettanto legati al sistema, quindi non è quella discriminante. È l'auspicio di tutti il fatto che l'Italia comunque faccia un passo in direzione del mercato, in direzione di una maggiore apertura agli investitori, consigli che rappresentano di più non soltanto azionariati estremamente frammentati, ma anche le forze del mercato, i fondi di investimento. Insomma, voglio dire, la governance di una società in fondo è questo, è una democrazia societaria. Ma questo ricadute serve. Politiche secondo te le avrà? Ricadute politiche ne avrà sicuramente, perché come abbiamo detto prima, le generali sono un incrocio strategico di partecipazione di altre aziende, quindi che hanno un impatto sul sistema notevole. Pensiamo al caso di Telecom Italia. Telecom Italia è un dramma nazionale da sempre, chi la deve controllare? Pensiamo anche al Corriere della Sera, quante volte è stato messo in discussione il ruolo del Corriere della Sera nel sistema politico italiano. Quindi è ovvio che è in atto una ricomposizione sistemica dell'industria, della finanza italiana. In Italia, per quanto noi abbiamo sempre detto la politica stia fuori dall'industria della finanza, purtroppo un livello di influenza c'è sempre stato, e in questo caso ne è un po' lo specchio questa crisi. Dimmi solo se no, il vero vincitore è Della Valle? Della Valle può dire di aver vinto una sua battaglia, in questo senso sì, lui ne ha fatto una battaglia, ha avuto il coraggio di dirlo, che poi questa sia una questione non è una questione da stadio, cioè non era una partita fra uno e l'altro, quindi non va inquadrata in questi termini, perché penso che anche Della Valle non sia felice comunque di vedere tutte le discussioni che ci sono state intorno alla società. Una risposta la do io di Anna Botine, quindi del Banco Santander, della Finanza Cattolica Spagnola, vicino all'Opus Dei. Abbiamo già detto, ieri se ne è uscita anche dal Consiglio, è chiaro che anche quello è un elemento in cui veniva meno l'acqua nell'acquario di Geronzi. Sono tutti elementi e tasselli, però non possiamo, adesso siamo veramente oltre ogni tempo massimo. Io ringrazio Alessandro Pratarotti, vice direttore del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.